sono disagiati questi qua. E tra, mio padre ha detto, ma sei convinto di lasciare qua l'aereo? Dice, e questo c'è. Buh, vabbè. Noi andavamo, sì, lì a Sorso, però da Pinuccio, quello che c'è nella zona industriale, però con quello in alto. Questo qua è il primo che c'è. Arrivo, c'erano tutti i contenitori pieni, non avevamo più pallet, non avevamo più niente. Alla fine ho detto, ascolta, io non posso stare qua, venire domani mattina. E dopo, perché non facciamo una cosa? Le mettiamo, ove sacchi, meno male. Ove sacchi è una cassetta di quelle, insomma, medie. Ho detto, la mia è tutta pulita, quindi io la metto sopra un pallet, la pesiamo, mi toglie il peso del pallet e così almeno poi domani mattina fate quello che volete, mi lascio i sacchi qua, i bidoni, tutto quanto, non devo stare lì a venire domani mattina io dopo, domani perdo la giornata di lavoro per venire qua. Guarda, disorganizzatissimi al 100 per 1000, boh, comunque. Sono riuscito a fare così, sono riuscito a convincerlo, ma ho detto vabbè dai, allora prendiamo una pedana, tanto mi pesava intorno ai 20 kg, ne togliamo 20 kg dal peso. E tra me ha detto, ma però io quelle che mi hai dato tu l'altra volta le sentivo che erano pesanti, ma no, non so leggere leggere, dai. Quindi 20 kg ho pensato che magari c'erano, dai. Allora ho fatto così, ho messo 8 sacchi di... Dico, sono riuscito ad arrivare a 387 kg di olive. Metto giù 20 kg. Sì, sì, sì, una ventina di chili pesanti. Quelle lì. Sì, sì, sì, sì. No, vabbè, quelle che ti ho dato io l'altra volta ce n'erano grandi e ce n'erano piccole, però ti ricordi quella Epal? Quanto pesavano, c'era una Epal che era pesante, pesante, pesante, che lì si era intorno ai 25-30, dipende da come è strutturata, perché sono Epal e Epal. Quelle, per esempio, quelle pitturate di blu, quelle che non puoi bruciare, quelle che quelli pesano una trentina di chili secondo me, quelle pedane, mentre quelle Epal tutto in legno, quelli una ventina. Sì, sì, è vero, è vero. Io devo aver portato un anno e basta luglio, poi non l'ho più portato perché sono sono molto, anche molto maleducati, disonesto non posso dirlo perché non ho avuto la comparazione, però sono molto maleducati, molto maleducati, molto scortesi, quindi a me la gente scortese non piace, allora non sono stato lì a lamentarmi, ho preso lui e me ne sono andato. Lo sto portando, non porto mai, ne ho fatto pochissimo, ne ho fatto 10 litri, mi sa, a San Pantaleo, a Sassari, dove c'è, per andare a fare metà carbone. Io la prossima la vorrei portare lì, spiegami dove c'è Christian in 446, lo devo anche sgridare perché cazzo, l'ho chiamato e non mi ha risposto, ho chiamato al telefono. Dove rimane, vicino a Carboni oppure dietro Carboni? Rimane dietro Ferramenta Carboni, in pratica per andare a Ferramenta Carboni passi davanti a quella affare delle aste giudiziarie, subito dalla via, subito dopo a quello schifo lì, a destra, scendi giù in fondo e proprio lo vedi sulla sinistra, o l'edificio San Pantaleo. San Pasquale. La macinata viene 18 euro, però sono molto in gamba, molto cortesi, molto, dai, lavorano, e poi lavorano bene. A me mi ha chiamato il giorno dopo, quindi vado lì, sono già 2 anni, 2 volte che vado lì e mi trovo bene, bene, benissimo, benissimo. Quindi io te lo consiglio di andare lì. Allora, il mio socio non andava lì, buon'anima, 18 euro, qua invece si paga 16 euro, però sono buoni gasolio, quindi tanto vale andare lì dove stai dicendo tu. Infatti la prossima sono convinto che lo faccio lì, così valutiamo anche com'è, perché una volta l'ho portato da Coso, da lì dove c'è l'Eurospin, da, come cavolo si chiama, porca miseria, vedere anche mio parente da lontano. Comunque, vabbè, quello lì, assieme a questo olio vabbè, chiaro chiaro, liquido liquido, e tutta questa cosa, anche non è lo zoo, non è lo mio, perché il nostro non esce così. Vabbè, ma la favola ci ho messo la croce. Lida, porca miseria, aiutami. Lo sai che forse non ho neanche mai visto io quello lì ficcio. No, a me me l'ha dato, a me quella signora mi ha fatto anche complimenti, mi ha detto guarda ti è uscito un olio, so che mi è uscito poco, me ne sono usciti 10 litri, no? Fai la divisione e non aggiunuta. però è verdone, sembra, cioè è piccantissimo, è proprio, me le ho scelte e mi è uscito un olio bello. Ma io ne ho portato, cos'erano, 100 kg, mi sa, e mi ha dato 10 litri d'olio. Però ma erano olive verdissime, non ha reso niente, perché erano olive verdi, mischiate anche quelle da confetto e mezzo, ma era, mi ha detto guarda, non ti rende tanto questo qua, però sicuramente avrai un prodotto di altissima qualità. E infatti quando sono andato a ritirare mi ha detto guarda complimenti, hai fatto una bellissima selezione, mi ha detto, perché ero qui, io sono andato proprio il giorno che hanno aperto, capito, e hanno iniziato a macinare, quindi ero il secondo, perché sono andato alle 8, c'era alle 8 e mezzo lì, ho aspettato perché aprivano alle 9 scusa, e ero il secondo, infatti l'ha preso, l'ha visto, ha detto caspita qua ti esce un bonbon di prodotto, poi quando sono andato a ritirarlo mi ha dato la conferma. E va bene, non lo so qual è quello dove c'è l'Euruspin, Mura, si chiama Mura, che è praticamente il padrone dell'Euruspin, no? Però anche Curi. E infatti mi sta dicendo anche quello di San Pasquale mi ha detto, è di Mura, non mi pare, no? No, non è di Mura, quello è fa Napoli, il nome ce l'ho nel contratto, ce l'ho nella ricevuta che mi ha dato, comunque ce l'ho nella ricevuta che mi ha dato, no, ma poi c'è la signora che qua è cortese, gentilissima, il figlio è molto molto, guarda, sono persone stupende, io ti consiglio di andare perché poi ti trovi bene anche lì, anche chi lavora di lì e caspita sta attento alle cose tue, no, lavorano bene e ci va tanta gente, solo che la macinata costa 2 euro in più, se mi stai dicendo che è 16 di lui è 18, di lui è 18. Sì, però vabbè, ti fanno giù di conti, 2 euro ce lo stai mettendo in viaggio, non è che... Sono 18 euro a macinata, quindi se sono 3 kg, se su 400 kg sono, diciamo che sono 4 macinate, sono 8 euro. Però ti devo dire una cosa, io te ne posso dare anche, cioè se le due valgono, no? Io te ne do anche 3 a macinata, intanto sto sempre risparmiando, perché un litro d'olio costa 14 euro, quindi sto risparmiando. Però se ti dà un prodotto di qualità, perché poi di lì lo lavorano a caldo, non è una classica macinatura, è una macinatura a caldo. Quindi non so se la qualità del prodotto sia uguale agli altri, se fanno parlare di due in più secondo me c'è un motivo. No, aspetta, ho toccato il microfono alla Franciccia, sta uscendo. Sì. Allora, aspetta un attimino, a freddo è migliore, perché a caldo si ti dà l'olio, però è molto più liquido. Allora è a freddo, perché mi ricordavo questa differenza. Io vabbè, non è che sono tutti i giorni che sto macinando olio, quindi sì, una macinatura, se gli altri la fanno a caldo, loro la fanno a freddo, allora è a freddo, sì. Mentre invece Mura l'ha fatto a caldo, per quello ti ho detto che è uscito molto più chiaro e liquido. Ma questo non è il nostro, ma questo è già questo. Poi l'hanno lasciato lì, come si dice, a basarmi, ha fatto un po' di fondo, è diventato un pochino più denso, però il colore era strano. Loro ti trovano la scusa che c'è questa qua, l'acidità dell'olio, le olive raccolte da terra, le olive, cioè che sono le classiche risposte che ti danno loro, no? per lavarsene le mani. Poi vedo, io dico, ti vuoi fare campo di tu, va a tiro, prenditene, cosa ne so, ti vuoi prendere un litro, però ci sono anche quelli che ho saputo che svuotano i filtri ogni macinata, quindi lasciamo perdere, che questo è un discorso abbastanza lungo, è un discorso sicuramente che non si può fare in radio. Però io direi a San Pasquale, guarda, mi trovo benissimo, non bene, benissimo. Dopo un giorno mi chiamano, mi danno l'olio, pago subito, minnando, e grazie, arrivederci, però è un trattamento, dai, di persone che ci sanno fare. Quanto un litro? Allora, te lo dico per certo, ma per certo, certo, certo. In grande quantità, in piccola quantità sì, magari un litro va bene, una quantità quanto la tua, ma quando si tratta di 3, 4, 5, 6 quintali di coso, non meno di 5 litri, fidati. Lo vedi, anche quello non va bene, perché non lo so, cioè tu mi chiedi 18 euro, te li do, 16 euro te li do, però voglio tutto quello che mi esce. Poi ne vuoi 20, io tengo 20, però non mi devi fregare, capito? Questo è quello che penso io. Poi a me non credo che mi abbiamo preso niente, perché la quantità mia era già molto bassa, quindi non credo che abbiano fatto, e poi anche se hanno fatto, vuol dire che le insalate riuscivano più buone. Cosa ti dico, vabbè. Immaginati chi gliene porta, c'è la collega di mia moglie, che la madre di Sorso, e ha 500 alberi, vanno direttamente quelli dell'oleificio con le scutitrici, con le cose, e le raccolgono loro. Pensa alla manfina e 20 chili. Guarda, tu, te lo dico per certo, perché ci ha lavorato mio zio, ma poi ci ha lavorato un mio carissimo amico, che nonché mio collega di lavoro anche, che tutt'oggi ci sentiamo, ormai abbiamo cambiato ditta io e lui, comunque ci sentiamo quasi ogni giorno. E mi ha detto, come la prendo a Milulio? E non ci vengo, e glielo so. Però mi ha detto, guarda, Salaris, per dire, quello di Bancali è uno dei pochi che ruba un po' meno degli altri, però ruba anche lui. Perché ho detto, ma togli una curiosità, consigliami un mulino dove insomma sono onesti. Ma tu, guarda, Salaris è quello che ruba di meno. Ci ha lavorato un sacco di anni. Sì. Vabbè, ma poi quest'olio lo rivendono, almeno io spero che se loro selezionano, per esempio dicono, questa è un'ottima macinata, ci teniamo 5 litri d'olio, perché sono 1000 kg di olive, però 1000 kg di olive che danno, no? E su 1000 kg se ne tengono 5 litri, magari per gustarlo, per farlo, così se te lo tieni mi fa anche piacere, no? Perché vuol dire che ho fatto un buon lavoro nel raccoglierlo. Però se tu fai zincuriti, desiliti, 15 litri, 3 litri, alla fine sono qui, alla fine di tutta la stagione del mulino, di lì loro hanno 6-7 mila litri d'olio a sgobbo. Certo, certo. Ascolta un attimino, che adesso mi è venuta l'idea. Mi è venuta una. Mi si è aperta una valvolina. devo pulire questo cacchio di coso, di asciugatrice, cosa devo fare? Allora, sì, ma tu sabato lavori? No, io sabato sono a casa, non ci vado a lavorare, mi interessa farmi le cose di casa adesso, anche se so che Walter aveva bisogno di una mano, però quello è un suo, come si dice, capriccio, io invece qua devo farmi le cose di casa. Sabato mattina, però lo facciamo presto, se sabato mattina lo facciamo presto, ti venerdì sera ti fa dare una mano e mi fa trovare già l'asciugatrice a terra sabato mattina, così io devo salire in capannone a fare il carico, e come finisco il carico, come finisco a lavorare, passo e te la pulisco io. Facciamo, perché poi domenica io lavoro, facciamo così che tu magari un venerdì notte o sabato mattina presto la metti in furia, e io la metto nella capannone verso le 11, dai, ora così, intanto sono 10 minuti, metti, sono 10 minuti, però questi 10 minuti se tu me la fai trovare già fuori, arrivo con la pull vapor e il compressore e te la faccio. Basta che tu vieni all'orario, io, ma se tu dici come fare, ci provo anche io con l'acqua, con la pompa, qualche cosa, cacchio, non so neanche dove metterci le mani, perché poi ho visto che ho tolto il, come si chiama, il contenitore dove praticamente quando asciuga la, cioè mette l'acqua, c'è un serbatoio, insomma è un patatac. Sì, lo fa, no, ti consiglio la pulivapor, dai, perché la mettiamo a bassa pressione, con la pompa non risolvi quasi niente, con la pompa devi stare col dito, devi stare, no, dai, abbi pazienza fino a sabato mattina, poi lo metto nella capannone e te lo faccio. Non è un problema quello, capi? Come dici che a tale ora sono io, tanto il sabato che mi alzo a mezzogiorno, io mi alzo presto lo stesso, non so neanche se devo continuare a scottare olive, figurati, quindi se inizierò verso le 9 a fare queste cose, ma se tu dici guarda che io alle 10 sono lì, alle 9 sono lì, io te la faccio trovare già pronta. Io mezz'ora prima di venire ti dico, guarda, sto arrivando, comunque io credo intorno alle 11, intorno alle 11, 11 e mezzo, in modo che a mezzogiorno abbiamo fatto la devi far asciugare, logicamente un paio d'ore, anche se la soffiamo, però la fai asciugare bene, e poi la accendi e vedrai che risolvi il problema. Va bene. Mi sta facendo gni. La ventolina del PS430 dell'alimentatore, maledetta. Sì, un po' di grasso ci vuole per una di cose. Sì, no, perché almeno mi risolvo, cioè io l'altra volta ho pulito bene il filtro con l'acqua, però poi l'ho messa, non mica l'ho fatta asciugare, l'ho messo così e sicuramente non ha funzionato, boh, anche per quello. Cosa ne so? No, non devi mettere l'acqua così, ci vuole proprio, deve essere riuscito più in profondità possibile e mettere metterla con la parte del cestello rivolta verso il basso, un po' verso il basso, un po' obliqua, e allora così riesci, perché con la pulita cosa succede? È un pochino di pressione e quello che vai a scrostare scende verso il basso, altrimenti se ne va dove c'è la pompa lì ti combina un guaio, lì devi proprio smontarla per pulirla, invece in quel modo tu la metti in obliquo col cestello verso il basso, con la bocchetta, con lo sportello per riempirla verso il basso, e fai lavando e cadendo, e tu vedrai tutta la lana che esce, la roba, perché poi quella lanella che toglie la roba, perché il filtro non ti credere che la filtra tutta, un po' passa, le micropolveri passano e con l'andare del tempo si trasformano proprio in vere e proprie battuffole di lana. Certo, e magari è quello che non lo fa andare. Al 100% è quello, perché anche io la mia non l'ho fatta. Io la mia non l'ho fatta. Tu pensi che io la mia l'ho fatta? Non l'ho fatta. E come mai? Secondo te come mai? Insomma. Io ti ho detto sabato dovevo fare la mia. Invece io la mia non l'ho fatta. Io la mia non l'ho fatta, capito? Quindi faccio come il calzolaio, esce con le scarpe degli altri, aggiusta le scarpe agli altri e lui esce scalzo, con le scarpe rotte. A chi rovende un bel cosa sabato, no, che qua non si finisce mai di fare, adesso oggi visto che ne è caduto quel muro. Quindi lasciamo perdere. È vero, è proprio vero, fare le cose agli altri, le tue passano in un secondo piano. Ma è così anche per me. E allora. Dobbiamo imparare un po' a essere anche, a pensare, a non essere altruisti. Dobbiamo imparare un po' a non essere altruisti, dobbiamo essere menefreghisti qualche volta. Invece le altre persone passano in primo piano. Ma non parlo di persone che hanno buoni rapporti, cose, quelle lasciamo perdere. Perché anche se viene un estraneo ti chiede, ascolta, ma sabato no, per fare quella fatici, ma sabato no perché ho bisogno, prendi, e non sei capace a dire di no. E usi so che usi e mi fradito, usi e babbo, usi e mesuda. Purtroppo. Invece magari tu chiedi una cosa a qualcuno, guarda, scusa, ma non posso, non me ne volere, però non posso. E va bene. Poi lascia perdere così. Mi adesso ho visto un video, ce l'ho sotto gli occhi. Tu ce l'hai presente. Ha boccato un lupo mannaro, cioè il lupo è sottomesso, poverino. Sì. Lui ce l'ha dentro, perché lui il piccolo è andato a vedere cosa è successo. Lui stranamente non si è accorto di nulla. Lui stranamente non si è accorto di nulla di questo muro. Noi tutti lì è venuto dopo facendo finta di abbaiare, perché io lo conosco come le mie tasche. E dove ha pensato? Allora vai. Ed è dove era ubarendi cosa è successo, no? In modo che poi stanotte andava all'agguato, andava proprio a esaminare bene la situazione, a fare l'ispettore del cantiere. Mi segui? Quello ti voglio dire, no? Quindi adesso sei rimane dentro casa. Poi andava a fare la ronda. Mi dispiace, ma è come, proprio come penso io, è come la penso io, no? Non è come dice lui. E va bene, prova, e va bene. Fratello, io mi fumo una sigaretta, poi riprendo, se non ti dispiace. No, fai, tanto adesso guardo la pasta, se è pronta, magari la metto fuori a raffreddare un pochino, perché non gliela do calda. Ma Franco, più sentito si è? No, ho sentito poco fa, te l'ho detto a Christian, però era lì, ma non ho risposto. Ehi, va bene, riprendo subito, dai. Ehi, a dopo, Ci sono, Anch'io, mica mi sono alzato. Vabbè, perché è ancora a caldo. Io la metto sotto l'acqua la pasta, sotto l'acqua poi ne metto l'olio di semi e condimento. Allora, gli ho fatto la... mi sono mandato un po' di pennette a me a cena, perché non è che, insomma, l'ho assaggiato qua, non ho mangiato neanche, e quelli lì. Poi gli ho messo l'acqua a bollire, gli ho messo un altro mezzo chilo di pasta e una lattina di trippa. Una lattina di birra. Quella dopo. E gliela prende anche lì all'Eurospin gliela vai, riprende Wurster, riprende, no, mangiate Wurster, riprende Wurster, riprende la trippa, la pancetta, il fegato glielo mette, i polmoni, dai, glielo mette a bollire quando sta bollendo l'acqua della pasta, e gli fa il brodo insieme alla pasta, glielo lascia raffreddare e il formaggio grattugiato. So a questi Gohan e boh, morti. Sì, no vabbè, anche lui già mangia bene. Quando l'altro giorno gli ho messo i fegattini e i polmoni con cucinate con le crocchette, un po' di acqua calda, quindi ho fatto la zuppotta e ciao, sono mangiata tutta e poi finito di mangiare russando forte, e vabbè, ma al posto che facendo lui la terapia, sì la sto sempre facendo, sempre due pastiglie al giorno, in mezzo alla roba da magnacchia, un'ibiglia, così è. No, diciamo che gli do mezzo, anzi, quello ti posso dire, 5 cm di giusto, spaccato in tre, e in cui gli metto la pastiglia all'interno. Quando la prende, la mattina e la notte? No, tutti e due assieme, stasera. Ah, le prende tutte e due assieme la sera? Sì. Sì. Adesso, caspita, per io quando gli levo le pastiglie a lui rimane il piccolo e prende, le prende come non gliene frega niente. Lui gliela mette in mezzo alla salsiccia, in mezzo a un pezzo di salsiccione crudo per non fargli sentire il coso. Se ne accorge, rimane, prende il pezzo del salsiccione in bocca, mi guarda e se ne va fuori. Allora lo seguo, dico dammi a me, e poi adesso lo mangio. Però se io non dovessi fargli questo passaggio di andare a prendere la roba, piglia e controlla perché sente qualcosa in mezzo, allora prende. È capitato che me l'ha fatto davanti, si è mangiato il salsiccione e ha sputato la pastiglia. È un maledetto, se ne accorgono, che purtroppo bisogna dargliela, che poi è un buon per loro, Ma vado a farlo comprendi, vado a farglielo capire a questi due esseri spregevoli, cosa vuoi? Mia, va vero minori, no, che va a lecce più umani, va a lecce più umani di un microfono, vero? Vai, va a fare la cuccia anche tu, vai. No, niente, due coccolone, comunque, sì. Quindi ti lasciamo questo qua di gelato di microfono, va bene così? Se non l'hai toccato, sì. No, non l'ho toccato, l'ho lasciato come mi hai detto tu. Allora già va bene. Infatti voglio dire, trovo un'altra cosa. Oggi ho lasciato il piccolo ragazzo e ergo slegato. Marisa stava uscendo, c'era il cancello aperto, deve essere che ha sentito qualche cane abbaiare. Stava uscendo veloce, a un certo punto voilà, il piccolo stava andando con lui, no? Però era legato, non se l'era ricordato che era legato, quindi si è mezzo strozzato, no? Si gira, se lo guarda male, torna indietro e se lo sottomizza. Ma vai, gli ha fatto capire che non doveva farlo. Fai bene a legarlo, a futidini, tanto. Non rivalzi male, non ha così gatto un po' garito. A loro essere legati, li stai dicendo. Dai, è una punizione, già lo capisce, fidati che lo capisce. Poi tu già ce l'hai avuti i cani e lo sai. Fai bene. Lo capisce, però quanto mentre Marisa mi ha detto che stavo uscendo largo perché ha sentito un cane abbaiare e lui stava andando a protezione ad Argo, però Argo poi si è accorto che era legato, no, che stava lì, oh, dai, devo andare io, tu sei lì. Sì, sì, vado io, tu rimani già cappello, che con me guai. Già si capiscono. Questo qua, il piccolo, quando quello là è agitato, è valo, morsica, lo fa, rubiglia, come da di caima, di satigaimo. Guarda, fanno... Boh, a volte, tra me e me, quando loro faccio certe cose, dico, questi qua li manca solo la parola. Sì. È che, purtroppo, altre volte prendono delle iniziative che... quando sentono altri cani più che altro, adesso io la notte li vorrei lasciare sciolti, però sono sicuro che vanno giù a bagliare, gli altri rispondono e quindi fanno un fracasso, deve essere che però fanno a rete e tocca aggiustare la sabato. Provici, anche questi qua fanno un fracasso abbaiando, poi cosa succede? Abbaia uno, abbaiano tutti, non c'è storia, senti tutti i cani del vicinato. C'è stata una notte che c'era un casino nero, sono dovuto andare a uscire a far entrare perché stavano facendo un disastro, ma non solo loro, tutti i cani del vicinato, tutti, quindi quando è così devi uscire. Io a Trento, non viene Rubiglio Barogodo, oltre due, a io un'istranguolata e a Trento. Ma io lo so, però tocca alzarti, farti una passeggiata a casa di mutande, capito? Anche quello. L'altra volta, un po' di tempo fa, allora c'era un po' di movimento qua, no? E sono uscito io e il mio vicino Gian Piero, non so se lo conosci, solo io sono uscito con il ferro, in mutande con il ferro, e mi ha baitato, compa, mi ha detto sì, no, però sono armato. E anche io sono iniziale, sono uscito, ma io il forcone. Col forcone era. Qua invece qua dormono tutti. Non sente niente nessuno, E vabbè. Uiuia. A me penso la notte c'era questo fine. Un suono fine. Sarà 4 anni fa. Questo fisso. Cosa non è? E c'era un bel di cani abbaiando, a un certo punto esco, prendo da casa, non era, da casa dei vicini, non era. A 200 metri da me, dall'altra parte della strada, c'era questo tipo con il campanello incorto. Ascolta bene, il campanello incorto, e stava mandando questo ultrasuono da paura. Gli dicevo a Manuela, ma non lo senti questo rumore? E lì, questo tipo, un suono finissimo, mi ha svegliato, e lui non l'ha sentito, il padrone. E cioè questo campanello dove ce l'aveva? Fuori nel cancello, no, un campanello per suonare. E questo suono di lì non si sentiva, capito? Questo suono lì non si sentiva. Si sentiva in lontananza, cioè a 200 metri. Io ero coricato, io ero addormentato e mi ha svegliato questo suono. Ma non è che c'è qualcosa attaccato, che sta facendo qualche... Perché a volte la notte lascia attaccato qualcosa, qualche apparecchiatura, no? E noi c'è qualcosa in protezione, qualche finale in protezione, vado in garage niente, vado fuori niente, vado nella macchina a ascoltare niente, nel furgone niente. Cioè dopo vado vicino al cancello e sento, sai quando senti quel rumore tipo stereofonia nelle orecchie, esco fuori e sento questo rumore ed era questo campanello in corto. Dopo 10 minuti arrivano i carabinieri che li avevamo chiamati, invece quello del bed and breakfast, e caspita, ma questo rumore, ma Gabri, ma lo sai, e tu mi dai la cosa, questo campanello, poi arrivano i carabinieri perché avevamo chiamati anche altra gente, capito? Beh, ci mancherebbe altro. Fortissimo, però di lì al cancello, cioè di lì da lui, non si sentiva perché, cioè, tu mi entrate dentro casa, non si sentiva niente da lui, era in lontananza, cioè questo suono talmente era fine, talmente era forte che mi ne esci dato la diretta camera da letto. No, tu pensa che ieri ho spento tutte le radio, non c'era nulla in tensione e sentivo come che c'era un qualcosa di accesso. E poi, pensandoci bene, sicuramente sono le casse del PC, spengo anche quelle, nulla, sempre qualcosa di, però non sono riuscito a capire cosa era. Ti ripeto, era questo campanello che andava, che faceva questo ultrasuono, ma non era proprio un ultrasuono, perché l'ultrasuono noi non riusciamo a percepirlo, capito? L'essere umano, era proprio un suono fastidioso, un fischio talmente, non era neanche forte, era intenso, quei fischi deboli ma intensi, poi era per le 2 di notte, le 3 di notte, capito? Sì, ascolta, dammi 2 minuti, dai, che questo è venuto a rompermi le scatole a dargli da mangiare, che sennò non si stacca più. E dai, intanto io adesso chiudo, che domani mattina mi sveglio presto e controllo questa cosa al buio, la luce, poi vado al lavoro e vedo un po' cosa mi devo prendere da bricome, dai, quindi dai, chiudo che così mi curico, ok? Ci risentiamo domani sera. Allora, dai, va bene, dai, anch'io adesso mi devo mangiare e spengo tutto. A domani allora, dai, saluto nel Correarci, buonanotte, tante cose belle. Io, buonanotte, dai, a te, a Correa familiare, sì, a domani. E buonanotte anche a chi si è fermato a fare un po' di ascolto qua a 27.105. Ciao, buonanotte. Ehi, ciao, buonanotte.